con Sergio Sozzo di Sentieri Selvaggi per sapere i suoi 5 film preferiti tra quelli usciti in sala nel 2023 e fare anche un po' un bilancio dell'annata cinematografica. Ben trovato! Ciao, ciao, sono sempre contento di partecipare a questo dibattito sui film dell'anno. Mi diverte sempre, ma soprattutto è un'occasione per ragionare un po' del futuro più che di quello che è stato, insomma, rilanciare, ecco. Ecco, proprio a questo proposito, dici un po' che impressioni hai avuto su quest'annata, su dove stia andando il cinema e la fruizione in sala? Mi sembra che questa annata abbia raccontato che il cinema d'autore, il cinema d'essai, come lo vogliono chiamare, ha detto cinema art house, sia ancora molto in salute. Nella mia cinquina ci sono film di autori oramai storicizzati, riconosciuti come Haki Kaurismäki, il cui Foglie al vento è sicuramente una delle cose più belle che abbiamo visto quest'anno, un film straordinario, è uscito da pochissimo nelle sale ed è un film assolutamente meraviglioso, però ecco, come Kaurismäki quest'anno in sala abbiamo visto tanti autori importanti, sia ovviamente della sua generazione che delle generazioni successive, però già riconosciuti nell'ambiente festivaliero, nell'ambiente critico, ma anche come un loro importante riconoscimento da un certo tipo di pubblico. Penso ad Albert Serra, Pacifixion è sicuramente un altro dei titoli importantissimi di quest'annata, è uno dei film chiave del decennio, probabilmente per capire che cosa possa significare oggi girare delle immagini politiche, essere un cineasta politico in qualche modo. Penso anche al Male non esiste di Ryusuke Hamaguchi, cineasta giapponese che è, insomma, è in giro da molto tempo, ovviamente chi frequenta il circuito più cinefilo se lo ricorderà da anni, ma che ultimamente ha avuto questa spinta in avanti grazie agli Oscar, ai premi, agli Orsi d'Oro, eccetera, con gli ultimi due film. Questo suo nuovo che si chiama Il Male non esiste non è da meno, è un altro film della mia cinquina, appunto, si chiama Kaurismäki a Serra. Il Male non esiste, un film di Hamaguchi anche irrisolto, però meravigliosamente irrisolto, un film molto inquieto dove si agitano molte delle problematiche sull'uomo, sul passato. Da questo punto di vista il titolo anche italiano è abbastanza eloquente, seppur la forma può essere meno chiusa di Drive My Car, forse è un film anche più interessante di quello, mi permetto di dire. E per quanto riguarda le autorialità, noi abbiamo visto in sala pure questo a dicembre, l'ultimo film di uno dei più grandi nomi della storia di Hollywood, e non solo, che è Paul Schrader, sceneggiatore, regista, maestro giardiniere, è obiettivamente una lezione di scrittura, di struttura, di minimalismo, di essenzialità, allo stesso tempo di pazzesca passione ancora per il cinema e per i personaggi, e anche questo fa parte dei miei cinque. E devo dire, al primo posto, semmai ci dovesse essere un podio, mi piace mettere Coma di Bertrand Bonello, perché tra l'altro è proprio un film che risponde alla tua domanda, Federico, perché è un film girato durante il lockdown, girato con Zoom, girato con i pupazzetti delle Barbie. Poi non c'è tempo, ne ha fatto un altro che si chiama La Bette, che vedremo l'anno prossimo, ancora più estremo, i cui titoli di coda, per dire, sono un QR code, no? Ecco, mi sembra che in un film come Coma, ma anche in film di altri autori, questa riflessione sulle mutazioni della fruizione, su in qualche maniera la frammentazione dell'esperienza cinematografica, stia finalmente portando a un linguaggio che vuole affrontare seriamente queste mutazioni in atto, non soltanto rifugiarsi nella nostalgia, come è stato magari nelle ultime stagioni, o arroccarsi nel grande spettacolo. Mi sembra che sempre di più stiamo vedendo dei film, dei titoli, degli sguardi che fanno i conti con queste mutazioni e che cercano di traghettarle. Per questo motivo, Coma, secondo me, è uno dei titoli chiave della stagione, ecco. Bene Sergio, allora ci sentiremo nel corso dell'anno. Auguri, un abbraccio e a presto. Ciao.